Mia nuora mi ha raccontato un episodio che costituisce la normalità nelle relazioni umane. Ma il normale di tanto in tanto deve essere preso in esame seriamente, altrimenti neppure Newton avrebbe scoperto la legge di gravità se non si fosse messo a riflettere sul perché cadano gli oggetti. Trovandosi in macchina, mi racconta mia nuora, era preceduta da altre due automobili che si erano fermate per dare la precedenza a chi transitava. Quando la prima macchina partì, di seguito partì anche la seconda, quindi mia nuora, voltandosi per osservare se la via era libera, partì a sua volta. Ma quando guardò avanti per procedere, si accorse che la macchina che la precedeva si era fermata. All'improvviso, per istinto, mise il piede sul pedale del freno, non riuscendo però ad evitare di toccare leggermente il paraurti della macchina davanti alla sua. Scesa per controllare, vide una piccola ammaccatura non più grossa di un dito. Subito cercò di far comprendere al conducente che era possibile mettersi d'accordo con una modesta cifra, anziché dover andare tramite i carabinieri o l'assicurazione, ma l'automobilista non ne voleva sapere. Mia nuora cercò di insistere perché, a causa della denuncia del sinistro, avrebbe subito un aumento nel premio dell'assicurazione. Per lei sarebbe stato molto più conveniente pagare il danno direttamente. In questo modo avrebbe assolto il suo dovere in merito all'incidente, senza andare incontro ad una penalità assicurativa sproporzionata. Il giovane automobilista rimase fermo sui suoi diritti di denunciare il tutto all'assicurazione e mia nuora dovette cedere davanti a tanta insistenza. L'episodio terminò che il giovane ricevette dall'assicurazione una cifra sproporzionata di risarcimento e mia nuora dovette subire un salato aumento per l'assicurazione della macchina. Un episodio, questo, non unico e raro, ma contenente valori morali che, presi sul serio, devono farci riflettere sulle motivazioni che ci spingono ad agire. Al di là di ogni ragionamento teso a incolpare o scagionare i due protagonisti, due cose sono certe, come è certo che il sole scalda e non raffredda. Il giovane era stato danneggiato e mia nuora era colpevole. Per mia nuora non c'erano attenuanti, il giovane aveva tutte le ragioni possibili. Che il giovane volesse denunciare il sinistro era più che giusto, ne aveva tutte le ragioni. Nel denunciare l'incidente, il giovane agiva legittimamente, adempiendo niente meno che un suo dovere. Nessuno può incolpare il giovane di ingiustizia, perché era pienamente in regola con le vigenti leggi stradali. Che il giovane fosse rimasto completamente sordo all'implorazione di mia nuora era dovuto soltanto al desiderio dell'uomo di applicare la legge. Chi poteva biasimarlo? Nonostante tutto, però, qualcosa non quadra dal lato morale. L'ammaccatura al paraurti, notiamo che si tratta di un paraurti e non di una parte nobile come una portiera, era veramente insignificante. E, oltre a soprassedere a un simile danno, il giovane poteva benissimo accettare un risarcimento a mo' di danno morale. La sua macchina era stata tamponata. Ma perché il bravo e giusto giovane ha insistito e ottenuto che il tamponamento fosse dichiarato alle rispettive assicurazioni? Quali sono state le vere motivazioni a spingere il giovane a essere ligio nell'applicare la legge? È vero che nessuno può giudicare le intenzioni degli altri, ma è molto difficile pensare ad una rigida applicazione della legge da parte del giovane solo per amore della legge. Applicando la legge, il giovane è stato risarcito con una cifra esorbitante, tesa a pagare un paraurti nuovo. Ma se invece, applicando la legge, il giovane fosse andato in rimessa per una gravosa cifra, sarebbe stato così inflessibile? Certamente no. Perciò, senza voler essere dei censori della morale, lo scopo dell'integrità del giovane era nient'altro se non riscuotere una cospicua somma di denaro che non gli sarebbe spettata usando un metodo legale. Inoltre, se si vuole continuare a fare la morale a questo episodio, il giovane ha recato danno a mia nuora, facendole perdere dei privilegi in merito all'assicurazione, quando poteva benissimo ricevere una certa cifra adeguata per il danno del paraurti. Ma, avido di denaro, ha preferito ricevere una lauta somma dall'assicurazione, piuttosto che ricevere il giusto e non recare danno al prossimo. Qualsiasi applicazione della legge, non avente come obiettivo il bene del prossimo, diventa disumana. E la legge più vicina è alla verità, più diventa diabolica perché, contrariamente a quanto dipensa, il diavolo si serve della verità per ottenere l'ingiustizia. Infatti, tentandolo nel deserto dopo i 40 giorni, ricordò a Gesù delle verità, ma solamente allo scopo di indurlo a compiere cose illecite. Non a caso Paolo disse: «Noi sappiamo che la legge è buona se, aggiunge, uno ne fa un uso legittimo». Deuteronomio 1.8, intendendo dire che non è sufficiente far valere la legge come ha fatto. Del resto, il giovane la cui macchina è stata tamponata, ma dipende dal motivo per il quale la applichiamo. Le motivazioni possono rendere illecito ciò che è lecito e addirittura rendere anche lecito ciò che è illecito. Infatti Davide prese dei pani consacrati che non poteva mangiare, ma poiché era affamato, Gesù lo giustificò. Anche mentire non è lecito, ma se lo si fa per salvare la propria vita e quella degli altri, è consentito. Se si guarda la vita dalla prospettiva degli obiettivi, tante situazioni diventano chiare. Una di queste è la politica. Per me è sempre stato un enigma come due partiti possano trovarsi sempre in opposizione, fino a quando non ne ho capito le intenzioni. In genere la ragione del disaccordo viene fatta risalire a quello che uno dei rappresentanti ha detto e come lo ha detto, o a quello che ha fatto e come lo ha fatto. Discussioni a non finire, che impediscono all'attento ascoltatore di rendersi conto di qualcos'altro che gli sfugge. Così è stato per me, fino a quando ho compreso che non erano tanto le parole o certi fatti incresciosi ad essere ragione di contesa, ma le motivazioni del partito. Se un partito, ad esempio, vuole privatizzare tutto e l'altro invece intende rendere tutto statale, qualsiasi cosa dica e faccia uno, non andrà mai bene per l'altro. Se le motivazioni sono diverse, non può esistere nessuna intesa, neppure in ciò che è giusto. Stessa cosa vale per le comunità dei figli di Dio. Stavo aiutando una comunità condotta da due persone anziane, rispettivamente di 92 anni e 88 anni, intenzionato a introdurre uno spirito fresco e giovanile, e come mia abitudine iniziai a tenere riunioni di studio biblico nelle case. Passò un poco di tempo e questi conduttori mi dissero che non trovavano molto buona la mia iniziativa perché, per loro, l'importante era che le persone frequentassero alla domenica il culto. Ora si pongono alcune domande e, forse è sbagliato leggere la parola di Dio nelle case, avevo forse trasgredito qualche regola cristiana? Le mie intenzioni erano forse cattive? Niente di tutto questo, ma vi era una certa divisione tra me e i conduttori, perché avevamo due obiettivi diversi. Per loro l'importante era frequentare alla domenica il culto, tipo la messa cattolica, poi il resto era secondario, mentre per me l'importante era che i credenti conoscessero sempre più la parola di Dio, poiché con maggior conoscenza avrebbero automaticamente frequentato regolarmente la riunione della domenica. Come succede spesso, gli obiettivi dei credenti potrebbero anche essere complementari, ma chi ha un obiettivo, come può perseguirne un altro? A volte è possibile conciliare gli obiettivi, ma il più delle volte no. Conosco un conduttore di una comunità, il cui obiettivo è l'ecumenismo, mentre a me interessa la salvezza delle anime. E poi ritengo che ogni figlio di Dio sia libero di frequentare la comunità che vuole e scegliere come comportarsi. È evidente che ci sia un conflitto di obiettivi tra me e il conduttore, il che potrebbe anche andare bene, ma mentre il conduttore è tollerante verso chi professa dottrine diverse, è intollerante verso chi la pensa diversamente da lui. Gli assurdi e i contrasti della vita cristiana. Comprendo sempre più l'ordine di Paolo, perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. 1 Corinzi 4.5, un ordine che deve essere compreso rettamente perché non è vero che non dobbiamo giudicare nulla. Poco dopo essersi espresso in tal modo, ai Corinzi Paolo intimerà di giudicare i credenti che avevano delle liti fra di loro, 1 Corinzi 5.12. Inoltre Gesù disse di non giudicare secondo l'apparenza, ma di giudicare secondo giustizia, Giovanni 7.24. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, si riferisce al voler condannare le motivazioni delle persone. Infatti Paolo allude ai pensieri dei cuori, a quello che è nascosto e non ai fatti della vita. Chi ha posto una fede salvifica in Cristo è chiamato, sì, a non essere sospettoso né malizioso, ma essere semplice come una colomba e accorto nel discernere il male e nell'evitare di compierlo. Proverbi 17.12, 22.3, 14.6. Inoltre vi è un'altra verità che ho dovuto imparare a mie spese ed è citata nel libro dei Proverbi: non riprendere il beffardo per evitare che ti odi, riprendi il saggio e ti amerà. Proverbi 9.8. E saggio non condannare certe motivazioni sbagliate, perché lo dice Dio. Ma è anche vero che nel tacere non ti esponi all'odio altrui. È vero che mi devo astenere dal giudizio meno condanna meno, perché le mie valutazioni possono sempre essere difettose, ma ho inoltre il vantaggio di non crearmi dei nemici. Quindi, gli obiettivi sbagliati rimangono, come il giovane del quale parlava mia nuora, tu le puoi anche capire, ma devi continuare per la tua strada e lasciare a Dio il giudizio finale. Del resto, quello che conta in questa vita non è mostrare al prossimo le sue malvagie motivazioni, ma l'indagare nel nostro cuore se vi sono motivazioni sbagliate, poiché ognuno di noi renderà conto di se stesso davanti a Dio. Di se stesso e non degli altri. E se comprendo le motivazioni sbagliate, cosa faccio? Non trovo sbagliato fare un piccolo tentativo per persuadere il prossimo a non continuare su quella strada. Poi si deve lasciare a Dio il risultato. Infatti anche a me successe la stessa cosa che a mia nuora. Subito giovane scese dalla macchina, volendo fare la denuncia. Mi opposi, proposi i soldi, ma niente da fare. Insistetti con uno spirito molto dispiaciuto, palesandogli anche una sua certa disonestà. E Dio volle che il giovane, alla fine, mi disse: «Vedo che lei è una persona sincera e onesta. Lasciamo stare». A volte, anche su questa terra, vediamo trionfare la giustizia. I 99. Ellero.